nation. Ritmo de bolero. Ritmo de bolero. Ritmo de bolero. We'll be right back. Thank you. Perfectly clear. We're here to pump the nation. Thank you. chiamate giù e fate son ben. Si cargo con una casa rombo mussia, tiendo fussi, tiendo fussi. Perché non si pronunci giù? Si scordate, si va a mezzo mare e mi sputi giù. I poca batterie faccio sempre da notte con bene. Vado a stivato. Perché non mi chiamate giù? E fate sonde, si era con frigorifere non trova niente. Ma non può avere in gelazzi vicino. Perché ti sei appoggiato là? Stavi cadente. E se a casa avuto la nandara niente, da catta una aspirina e più l'ha preso io. Ma posso tu che sulle non ce la faccio giù. Ma piglio filo bus fino a dove tu. Ma piglio filo bus fino a dove tu. Bobo, e tu che fai? E fatti so, e fatti so te. E fatti so, e fatti so te. E fatti so, e fatti so te. E fatti so, so, so. E fatti so te. Loving me. Don't. We're not turning around. Yeah, I'm waiting for the